America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Was there a physical wiretap of Trump Tower? No, but there never was. And the information we got on Friday continues to lead us in that direction. Bene, avete sentito David Nunes, che è il presidente della Commissione Intelligence della Camera, repubblicano naturalmente, ieri in un'intervista con Fox News on Sunday, e la sua dichiarazione è molto chiara. Possibile che ci sia stata fisicamente un'intercettazione dei telefoni della Trump Tower? No, dice con chiarezza, non c'è mai stata. Ecco, che cosa è successo? Che venerdì, nella conferenza stampa con Angela Merkel, quando un giornalista gli ha chiesto: ma Presidente, lei continua a insistere sul fatto che ci siano state delle intercettazioni, dopodiché ha detto che magari queste intercettazioni erano state condotte dall'intelligence britannico. A quel punto, ricorderete, la settimana scorsa la Gran Bretagna si è infuriata, dice: ma com'è possibile che dica delle cose simili? Noi non siamo mai stati coinvolti in un'operazione di questo genere. E molto sornione, Donald Trump ha dato un'occhiata a Angela Merkel vicino a lui e gli ha detto, dice sì, in fondo di intercettazioni americane qualcosa ne sa anche la mia amica Angela, perché ricorderete che l'amministrazione Obama si era scoperto che intercettava le comunicazioni dei leader europei e c'era stato un gran pandemonio. Ecco, la verità è che su questo tipo di intercettazioni non ci sono state conferme, ed emerge un elemento molto particolare, che nel momento in cui Donald Trump cerca di combattere le più importanti battaglie della sua amministrazione, la battaglia sul bilancio, per esempio, che è appena cominciato, quella su Obamacare, la battaglia per la conferma di Neil Gorsuch alla Corte Suprema, che comincia proprio oggi per la conferma al Senato, in realtà dovrebbe passare, ecco, nel momento in cui ha queste sfide importanti per la storia della sua amministrazione, per il destino del paese, il presidente si perde in questi rivoli paralleli e che finiscono per danneggiarlo, perché anche l'opinione pubblica è un po' perplessa. Ecco, proprio oggi ci sarà anche un'audizione in Congresso di James Comey, il direttore dell'FBI, che deve riferire sulle interferenze della Russia nelle elezioni americane del 2016. Ecco, è molto probabile che durante l'audizione Comey risponda alle domande dei parlamentari su queste presunte intercettazioni, e sappiamo che cosa aveva detto Comey privatamente. Aveva detto che non c'erano mai state e che erano assurde. Ecco, non è chiaro perché Donald Trump continua a perseguire questo doppio binario: da una parte la gestione degli affari di Stato con delle sfide importanti, ma dall'altra invece scivola in queste dimostrazioni di incertezza, di scarsa professionalità. Io credo che ci sia anche una strategia: riesce a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica da quelli che a volte possono essere i problemi centrali, per poter poi proseguire, negoziare magari dei compromessi utili a una soluzione, ma nel frattempo riesce comunque a generare attenzione, a conquistare le prime pagine dei giornali e a lasciare gran parte dell'opinione pubblica e degli esperti alquanto perplessi. Representatives from the International Coalition Against ISIS are meeting. The coalition is looking at how best to counter the militant group. Ecco, a partire da mercoledì, ed è questa un po' la copertina della settimana, ci sarà a Washington un incontro dei 68 paesi che fanno parte della coalizione contro il terrorismo, una coalizione che era stata organizzata dal presidente Barack Obama. Ecco, nella sua lotta contro ISIS, di fatto, in qualche modo, Donald Trump rispolvera questa iniziativa. La conferenza è convocata dal segretario di Stato Tillerson, che nel frattempo sarà tornato dall'estremo oriente, ed è una conferenza che avviene a livello di ministri degli esteri. È la più importante, attenzione, dal 2014. Il presidente americano Trump ha chiesto al generale Mattis di preparargli un rapporto. Questo rapporto probabilmente sarà già discusso nei prossimi giorni. E però la verità è che ci rendiamo conto che alla fine anche Trump ha capito che è difficile cambiare rotta drasticamente rispetto a quello che si era impostato qualche tempo fa, proprio con l'amministrazione Obama, e prima ancora, se vogliamo, con l'amministrazione Bush, cioè lasciare che alcune battaglie avvengano in modo locale, con una posizione da osservatore attivo, con delle forze di addestramento, ma senza forze, senza truppe schierate sul campo. Ecco, io credo che questa linea sarà ribadita, almeno nella fase iniziale, dall'amministrazione Trump. Ci sarà una retorica forse più aggressiva, però la battaglia contro ISIS va avanti, e c'è una battaglia in corso per la presa di Raqqa. Gli Stati Uniti devono decidere se armare i curdi, e credo che alla fine l'amministrazione Trump lo farà. C'è una battaglia in corso per la presa di Mosul, della parte occidentale di Mosul. Insomma, c'è un quadro molto confuso, molto attivo, con dei progressi compiuti già dalle truppe americane sotto la precedente amministrazione. Qual è l'aspetto interessante? Che in qualche modo, almeno in questa fase iniziale, Donald Trump perseguirà la stessa linea, e lo dirà in questa riunione di ministri degli esteri, tra cui ci sarà anche il nostro ministro degli esteri Alfano. sarebbero gli altri approfondimenti, lei, da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americorivato.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la voglio dedicare a un'icona della musica americana, ormai tutti lo saprete perché è successo nel fine settimana, ma il grandissimo cantautore, il chitarrista Chuck Berry, un uomo straordinario, un artista straordinario, è scomparso ieri all'età di 90 anni. Era considerato uno dei padri del rock and roll, il suo Duck Walk, il passo dell'anatra, è diventato un simbolo di questo genere musicale e dunque con una canzone che ha fatto storia, una canzone immortale, dedichiamo noi tutti a Chuck Berry la canzone del giorno. Johnny, be good. Johnny, be good tonight. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny Be Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.